inusuale. Inusuale perché è una versione acustica, è un CD, si chiama Dall'Acustico ed è interpretato da Rita Forte. Lei è una voce e qua è l'essenza delle canzoni di Lucio Dalla dentro ad una voce e uno strumento che accompagna, o la chitarra o il piano. Ho ascoltato a lungo e più volte questo CD perché intanto propone una collezione di canzoni di Lucio Dalla, non quelle che ti aspetteresti e basta, come per esempio questa, non è il suo più straordinario successo. E secondo me c'è questa componente duplice, un grande rispetto della canzone originale e allo stesso tempo però esce fuori questa voce che ha proprio una sua armonia, una sua melodia, un suo tono particolare che la fa ridiventare nuova. E l'ho scelta in particolare, io credo che veramente è un CD che dà una sensazione di grande nostalgia ma positiva, ed è bellissimo pensare che ogni volta che si parla per esempio di Lucio Dalla dopo la sua morte non lo fai mai con tristezza, perché immediatamente ti torna tutto quel patrimonio di musica, di arte, di poesia, di canzone che ci ha lasciato. E questo CD secondo me è un piccolo scrigno del tesoro, ve lo consiglio proprio per questa stagione. Come consigliamo anche nel nostro percorso delle emozioni il film di cui ascoltiamo un breve trailer. Che effetto le fa nel 2011 andare a vedere un film muto? Mi piace da pazzi. È una grande novità. La cosa è particolarmente stimolante. Il cinema muto riserva sempre delle grandi sorprese. The Artist, Alberto. Questo è uno dei tuoi film preferiti, sì, e sì. Non potevamo non consigliarlo. Attori straordinari. Molto in linea. Anche la storia. La storia c'è magnifica. Questo film, una grande scommessa. E anche qui c'è la sorpresa. E c'è la sorpresa, e direi molto in linea anche con un po'. Abbiamo selezionato tre spunti oggi che hanno a che fare col tema della ricerca della felicità, perché il protagonista di The Artist è un attore che deve affrontare un milione di trasformazioni che stanno avvenendo fuori di lui e dentro di lui. Apparentemente lui cerca soltanto il successo come felicità, non guarda nient'altro, e invece verrà piano piano risalvato nella sua seconda vita dall'attrice che apparentemente lo ha scalzato dal suo posto di primato. È una grandissima storia d'amore, una grandissima storia sul senso della vita, una grandissima storia anche sul fatto che la felicità può arrivare nella tua vita sotto forme che non ti aspettavi, con modalità completamente inedite al momento in cui tutto sembra finito. E anche che della felicità, la tua felicità deriva e si nutre anche dalla felicità altrui. Assolutamente, fondamentalmente la felicità è proprio relazionale, cioè è un'emozione che ti si accende nel corpo, ma fondamentalmente non te la puoi gestire da sola. Dovremmo ritornare un po' ai primi giorni della nostra vita, ai primi mesi, ai primi anni, perché per il bambino la felicità è proprio un'emozione che ha senso solo se trovi una mamma e un papà che la condividono con te. E allora, dopo la musica, dopo il cinema, è arrivato il momento della lettura. La introduciamo naturalmente con un breve estratto del libro di cui parleremo con il suo autore, che già ci attende, spero felice, in linea. Trovandomi in un periodo in cui, dopo aver raggiunto una serie di obiettivi, mi sentivo svuotato e paradossalmente sprovvisto di felicità, decisi di scoprire le felicità degli altri, in modo da creare una banca dati a cui attingere nei momenti più tristi. La terapia della felicità si prefigge quindi di attuare una sorta di transfert con le gioie altrui. Per trovare gli altri ho realizzato un volantino, un annuncio di ricerca di felicità. Poiché il mio interesse non era diretto a un target preciso, ma a un target chiunque, il più vasto possibile, ho lasciato il volantino nei posti più disparati, nascosto fra i volumi in libreria, tra le pagine di una Bibbia in chiesa, abbandonato sui sedili della metropolitana e su quelli del treno, mimetizzato tra i flyer dei locali, fra i prodotti al supermercato o vicino alle casse delle trattorie. Ho fatto girare il bando via internet e ne ho scritto su qualche giornale. Gli altri hanno cominciato ad arrivare. All'inizio, come era facilmente prevedibile, si trattava di persone particolari, molto caratteristiche e in qualche modo vicine al mio sentire. In una fascia d'età media, a partire dai 25 fino ai 30 anni o poco sopra. Sono stato invitato a parlarne in radio e ne sono arrivati altri ancora. Chissà se ne arriveranno altri proprio dei nostri ascoltatori che stanno seguendo il nostro percorso emozionale. Saluto con grande piacere il Valerio Millefoglie, che è l'autore dell'Attimo in cui siamo stati felici. Buongiorno. Buongiorno. Ma come sono felice di aver letto il suo libro. L'idea è davvero straordinaria. L'abbiamo condivisa con Alberto e ce la siamo proprio, devo dire, gustata e assaporata. L'idea che la nostra felicità derivi e possa nutrirsi anche della felicità altrui, forse è una condizione per la felicità. Sì, e poi anche il discorso che avete fatto prima legato al film The Artist, no? Si pensa sempre che la felicità debba nascere da altra felicità, invece no. Cioè, la felicità nasce proprio dove manca, dove non c'è. Lì, nel caso del film, lui non riesce a stare al passo con i tempi, quindi perde il successo e va in depressione per questo e lo ritrova poi grazie all'incontro con un'altra persona. Nel mio caso io avevo perso mio padre, quindi ero proprio in dovere di ricominciare a vivere. Però, visto che da solo non riuscivo a farlo, ho pensato, chiediamo agli altri, a degli sconosciuti, no? Perché chiedere aiuto agli amici è facile, invece volevo proprio affidarmi a degli sconosciuti ed entrare in contatto con le loro felicità. Spieghiamo bene l'idea del libro ai nostri ascoltatori, perché è davvero originale. Cioè, proprio in questo contrasto tra buio e luce, morte e vita, il protagonista si trova così pieno di dolore ed aver bisogno di felicità e non potendo produrre una felicità sua, va alla ricerca del segreto della felicità di tante altre persone, facendo quell'indagine di cui avete sentito l'estratto poi letto dal nostro speaker. Quali sono le storie di felicità che racconta nel suo libro, la storia che le piace di più a lei che l'ha narrata? Più che una in particolare mi piace questa cosa, il fatto di essere riuscito a trovare la felicità anche in luoghi e situazioni dove di solito non si pensa possa nascere, possa esserci. Per esempio, sono stato in carcere e ho proposto di compilare il questionario della felicità a un gruppo di detenuti, oppure mi sono ritrovato alla fiera dell'imprenditoria funeraria, che detto così sembra... Sì, che uno dice, non è un'idea felice, no? Per andare... Felice. E invece è stato molto divertente, perché sembrava quasi una messa in scena della morte, ma la morte non c'era, anzi c'era la gente che cercava di fare business, di vendere, quindi la cosa bella è stata trovare la felicità in posti e momenti inaspettati. Per lei, Valerio, proprio come scrittore, come autore, questi sono tempi in cui la crisi, per esempio, che ci pervade, obbligano davvero l'intellettuale da una parte, l'artista dall'altra, a fornire percorsi di felicità alla gente che si è persa e che vede questa come un miraggio impossibile. Abbiamo bisogno di qualcuno che parli e racconti anche felicità, altrimenti è tutto nero. Ma sì, non lo so se poi uno debba, assumersi questo ruolo, nel senso, magari deve farlo innanzitutto con se stesso. Cioè, quando io ho cominciato a lavorare al libro, non pensavo che a un prodotto per far sì che poi gli altri riuscissero a essere felici, eccetera eccetera. Partiva da un mio bisogno individuale, quindi secondo me più che cercare qualcuno che ti aiuti o qualcuno che ti dia delle strade diverse, no, ognuno deve riuscire a farlo da sé. Valerio, volevo chiederle prima di salutarne una cosa. Lei ha sottoposto, no, le persone che incontrava a questo questionario. Se noi girassimo questo questionario a lei, che cosa risponderebbe? Allora, il questionario l'ho fatto apposta perché è difficile rispondere a questo, nel senso che io ho costretto le persone a raccontare i propri attimi felici, ma anche per esempio 10 minuti per un piatto di pasta e broccoli, quindi... Allora, mi dia i suoi 10 minuti, che possono essere 1,5, la felicità di essere a essere benessere, ad esempio. Ma per esempio adesso mi trovo in una fabbrica di manichini e sto intervistando i vivi che ci sono dietro i manichini, cioè come nasce un manichino, e quindi incontrare chi fa queste cose mi sta rallegrando, quindi anche lì è una felicità da incontro. Una felicità da incontro. Non ci ha dato esattamente, non ha risposto esattamente al questionario, ma noi rimandiamo alla lettura del libro. Complimenti, L'attimo in cui siamo stati felici, di Valerio Millefoglie in Audio Editore. Grazie Valerio. Grazie, salve. Alberto, e tu? L'attimo in cui sono stato felice, per esempio, quello in cui ho parlato di felicità con te in radio. Sai che la radio, fare radio, mi rende veramente felice. Grazie ad Alberto Pellai, grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani. Buona giornata da Nicoletta.